Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail per chi volesse scrivere: unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore Online. Il blog si chiama Guardie o Ladri, con un motore di ricerca lo trovate facilmente. Troverete degli articoli anche dedicati ad aspetti molto particolari della sanità campana, perché ve lo sottolineo, perché oggi parleremo ancora una volta di sanità campana. Una sanità che ha un buco miliardario, non si capisce bene se siano 6, 7, 8 miliardi, situazioni sempre più complesse, indagini della Guardia di Finanza, della Procura della Repubblica sugli appalti, una situazione molto complessa. Ebbene, come se non bastasse, ci si mettono anche le infrastrutture che cominciano e poi non vengono mai portate a termine. Oggi abbiamo ospite una vecchia conoscenza di Un abuso al giorno, il consigliere regionale di Alleanza Nazionale, di cui è capogruppo in consiglio, Enzo Rivellini. Buongiorno Rivellini. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, perché lo abbiamo chiamato nuovamente? Perché è un pasdaran della legalità, e chi mi conosce sa che non me ne frega assolutamente nulla dei colori politici, premio soltanto le persone nel mio impegno giornalistico. Ebbene, Rivellini è un pasdaran della legalità e ne ha combinata un'altra delle sue alcuni giorni fa presso l'ospedale del Mare. Può raccontarlo lei, Rivellini, che cosa ha fatto? Ho cercato di entrare nel cantiere dell'ospedale del Mare per vedere con i miei occhi qual era lo stato dei lavori, e purtroppo non solo non mi hanno fatto entrare, ma hanno bloccato tutte le entrate e una fila di camion lunghissima si è creata perché aspettavano per riaprire il cantiere che io andassi via. Ecco, insomma, siamo al paradosso. Abbiamo una sanità campana fatiscente, così come fatiscente in altre zone del sud e anche del nord. Ovviamente un ospedale che ci sta mettendo quanti anni, Rivellini, per essere costruito? Ma guardi, l'ospedale del Mare, che è la speranza di quei 100.000, ripeto, 100.000 cittadini della Campania che ogni anno sono costretti ad andare in un'altra città o in un'altra regione a farsi curare, doveva essere completato a febbraio del 2008. Circa un anno e qualche mese fa. Un ospedale enorme, il più grande ospedale del Mezzogiorno, 500 posti letto, con un investimento di 210 milioni di euro circa, il 120 milioni a carico dell'ASL e 90 milioni a carico dei privati, e a tutt'oggi, parliamo del marzo 2009, i certificati di pagamento nelle mie mani dimostrano che l'ospedale del Mare è circa al 30% dei lavori, quindi ritardi incredibili. Ecco, e questo è già un abuso sicuramente alla pazienza dei campani, ma un abuso nell'abuso è anche il fatto che le hanno impedito di entrare. È regolare questo? Cioè, un cantiere può impedire ad un consigliere regionale di entrare per avere, come dire, contezza di quello che sta accadendo, oppure invece hanno operato nel giusto? Ma io credo che non potevano non farmi entrare, ma questo non è il punto della discussione. La discussione è capire se finalmente si vuol dare un'accelerata ad un ospedale che può essere la speranza del Mezzogiorno, non solo della Campania. Indubbiamente, anche perché Napoli, voglio dire, ha una tradizione comunque di luminari nel campo medico-scientifico e sarebbe in grado di richiamare un bacino di utenza enorme. Noi cercheremo di metterci in contatto, anzi lo abbiamo già contattato, con il direttore generale dell'ASL Napoli 1, Giovanni Di Minno, quindi sentiremo presto anche la sua replica. Le chiedo questo, Rivellini: la sanità a Napoli è una merce di scambio, no? È inutile negarcela, è un terreno clientelare, è un terreno anche di spreco, di inefficienza, e chi segue le mie inchieste sul Sole 24 Ore sa che nel passato ne ho scritto moltissimo. Quali sono le novità e le sorprese che secondo lei di qui a breve vedremo nel campo sanitario? Tutto questo alle spalle, e a farne le spese saranno i cittadini campani. Ma la novità è che il presidente Bassolino pare abbia intenzione di candidarsi alle prossime elezioni europee e vuole usare, come l'ha fatta De Mita, Montemarano fino ad oggi, la sanità come trampolino di lancio per andare a Bruxelles. Ma mi permetta di ritornare un attimo sull'ospedale del Mare. Come no? Io prego, ci mancherebbe. Vorrei fare una denuncia forte a lei e a tutti gli ascoltatori. L'ospedale del Mare è stato ideato e costruito sul project financing, ripeto, il 55% delle somme a carico dell'assessorato della regione e il 45% a carico dei privati. Beh, a tutt'oggi le somme che sono state pagate, pari a circa 80-85 milioni di euro, sono totalmente a carico dell'ASL, perché un cavillo burocratico nel contratto prevede che fino al compimento del 55% delle somme paga l'ASL, successivamente poi i privati metteranno le loro risorse. In questo modo è facile fare gli imprenditori, si anticipa se paga l'ASL e alla fine poi quando se è maturato il guadagno, quando è finita l'opera, intervengono i privati, a questo punto non c'è più il rischio di impresa e quindi questa è un'altra anomalia di un contratto fra virgolette sotto tutela e sotto osservazione anche da organi della magistratura ed è un'altra questione da chiarire oltre ai ritardi enormi che ci sono per la costruzione di questo nosocomio. E noi cercheremo di chiarire questi ed altri aspetti con il direttore generale dell'AS Napoli 1 Giovanni Di Minno e nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare il consigliere regionale capogruppo di AN Enzo Rivellini per il suo intervento. Io ringrazio lei e gli ascoltatori ricordando che purtroppo i campani per i prossimi 30 anni saranno i cittadini italiani più tassati per le tasse regionali per coprire i buchi della sanità. Una sanità che, come abbiamo visto, purtroppo non dà il diritto costituzionale alla salute ai tanti pazienti della nostra regione. Cari radioascoltatori, colpo di scena. Avevamo cercato Di Minno, lo avevamo trovato, ma il governatore della regione Bassolino ha commissariato tutte le ASL e quindi non abbiamo più potuto trovare un interlocutore valido per replicare a Rivellini. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cambiato direzione e ci siamo rivolti alla vice segretario regionale in Campania di Cittadinanza Attiva, particolarmente attento ovviamente anche alle questioni sanitarie, Fabio Bascapè. Buongiorno Bascapè. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, qual è il suo giudizio su quanto finora è stato detto su questo benedetto / maledetto, per le vicende che lo contraddistinguono, ospedale del Mare di Napoli? Guardi, preliminarmente ovviamente è il caso di precisare che la nostra associazione è un'associazione che si occupa di tutela dei diritti e che porta un punto di vista che diciamo in qualche modo trascende quelli che sono i punti di vista delle persone che operano diciamo da un punto di vista più politico, certo, istituzionale, eccetera, sia politico che istituzionale che organizzativo, che non sia il punto di vista del cittadino fruitore. Prego, e sentiamolo allora. Il cittadino fruitore è preoccupato. Per completezza di informazione sono andato a dare un'occhiata sul sito, ho trovato una scheda sui siti istituzionali in cui per esempio si prevedeva il completamento dell'opera Ospedale del Mare entro marzo 2009 e funzionalità entro settembre 2009. Esattamente. Lo stato delle cose farebbe pensare francamente che probabilmente non potranno essere rispettati questa tempistica, però probabilmente è anche il caso di inquadrare il fenomeno, mi faccia passare questo termine, il fenomeno Ospedale del Mare, che tra le altre cose appena il caso di dire nasce in maniera anche tribolata, problemi sulla progettazione, a un certo punto c'è stato pure chi ha paventato che fosse anche troppo vicino alla zona rossa di vigilanza. Relativamente al rischio vulcano, altri problemi sono sorti per quanto riguarda le maestranze, l'adeguamento a norma, insomma, come dire, un percorso abbastanza tribolato che si inserisce poi nelle misure di razionalizzazione, perché non dobbiamo dimenticare che l'ospedale del Mare in realtà diciamo è collegato alla dismissione di tre storiche strutture cittadine che sono il Loreto Mare, l'Annunziata e la Scalesi, che sono tre strutture storiche, voglio dire, verranno trasformate in strutture territoriali. Assolutamente. Perderanno la loro vocazione. E in questa opera di razionalizzazione ovviamente si inserisce la costruzione dell'ospedale del mare. Ma andando per intuito, per carità, ne sono alla sfera di cristallo, ma a suo giudizio, quando finalmente il diritto del cittadino alla salute in quell'area verrà finalmente soddisfatto? Quali saranno i tempi a suo giudizio? Guardi, io le dico una cosa, nel leggere il provvedimento, nello studiarlo, tenga presente che io animo una sorta di piccolo esperimento che abbiamo fatto a livello regionale, che è una comunità di pratiche di aderenti con una particolare vocazione nel campo della sanità. E quindi ci stiamo ponendo il problema di studiarla approfonditamente, certo. La seguiamo con attenzione, i cittadini sono preoccupati. Quello che viene fuori sicuramente che, per esempio, le dicevo, leggendo la norma regionale, la parola qualità del servizio erogato, la preoccupazione di razionalizzare salvaguardando la qualità, non si coglie, maniera evidente. E questo certamente non aiuta la nostra riflessione serena sul tema della sanità in Campania. Io ringrazio il rappresentante di Cittadinanza Attiva, il vice segretario regionale in Campania, Fabio Bascapè, per il suo intervento. Grazie in regia Filippo Oreggi, in studio a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. We'll be right back.